Salva Danaio di Deborah Rosciani. Una buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Allora, ce ne siamo occupati anche lunedì scorso, ma non siamo gli unici, perché in questi giorni i riflettori del mondo sono puntati su Copenaghen per la 15ª conferenza ONU sul clima. E anche noi ci siamo tuffati nelle tematiche che uniscono salvaguardia ambientale e risparmio di denaro. Allora, questo è il contesto generale. Noi che siamo pieni di inventiva abbiamo deciso di portare stamattina a Salva Danaio la terra, intesa proprio come la terra da coltivare. Sì, forse abbiamo tentato una relazione azzardata, e però basta guardarsi intorno per capire come il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente passi anche necessariamente attraverso la passione per la terra, per la sua cura, per la sua coltivazione, che tra l'altro appassiona molti consumatori ma interessa soprattutto migliaia di imprenditori. Sono tante le famiglie alla ricerca dei prodotti di qualità senza dilapidare il portafoglio, che hanno, soprattutto nell'ultimo anno per la verità, riscoperto il gusto dei prodotti della terra, visitando di più le aziende agricole, comprando direttamente dai coltivatori e dagli allevatori, a volte attrezzando addirittura l'orto in casa e portando anche l'agricoltura nelle scuole, per non parlare poi della possibilità che si ha da qualche tempo, questo è veramente originale, di adottare a distanza fattorie o animali da cortile. E allora, vi appassiona questo argomento? Stamattina chiacchierate con noi, lo faremo molto volentieri, soprattutto io vi lascerò interagire con degli interlocutori molto interessanti quest'oggi. Allora, Giovanni Ferraris dell'azienda agricola Giacomo Ferraris, che ha lanciato l'iniziativa Le verdure del mio orto. Attraverso un sito internet è possibile individuare un appezzamento di terreno che si può, come dire, adottare. Loro lo coltivano per noi e noi possiamo gustare i prodotti di questa terra. Poi sentiremo Nunzio Marcelli, fondatore del bioagriturismo La Porta dei Parchi, un grande agriturismo in Abruzzo. Lui permette l'adozione di pecore a distanza. E Angela Berlingo di Slow Food Educazione, per parlare invece dell'iniziativa Orto in Condotta, quindi l'orto nelle scuole, ma soprattutto avremo modo oggi anche di parlare del ventennale di Slow Food. Oggi è il Terra Madre Day, per cui davvero stamattina ce n'è per tutti i gusti e per tutti voi. 800 24 00 24 è il numero verde che vi dà l'opportunità appunto di chiamarci, di intervenire in diretta, oppure ci potete scrivere al 349-238-6666. La borsa, ne ho già parlato nel corso del giornale radio, quindi mi affretto a ridarvi gli aggiornamenti. Borse positive oggi in Europa, per niente preoccupate e della Grecia e di Dubai, e neanche del giudizio negativo sul debito espresso da Standard & Poor's appunto per quello che riguarda la Spagna ieri. Oggi si ritorna a crescere, e il rialzo dello 0,45% sulle FTSE MIB a Piazza Affari. I titoli più premiati: Italcementi più 1,78, STM più 1,76, rialzo di 1,5 punti per la Popolare di Milano e per Buzzi Unicem. Il segno meno invece su Fondiaria, che perde la stamattina, anzi approfondisce un po' il suo ribasso, meno 1,76%, calo di 1 punto per Terna e Bulgari. Euro su dollaro a 1,47,31. Lasciamo subito la borsa, andiamo al tema di oggi, riscopriamo la terra. Nella vecchia fattoria, ia ia oh, quante bestie ha zio Tobia, ia ia oh, c'è la capra, capra, capra, capra, nella vecchia fattoria. Da chi produce a chi consuma. Negli ultimi anni sembra essere questa la tendenza che ha in parte soppiantato i classici e tradizionali carrelli della spesa. Dopo l'esperienza dei farmer market e dei gruppi di acquisto solidale, l'offerta basata sul rapporto diretto tra produttori e consumatori ha continuato ad ampliarsi, fino a raggiungere in alcuni casi veri e propri punti di contatto. Oggi è possibile, per esempio, mangiare verdure del proprio orto senza avere un orto. Come? Seguendo l'esempio anglosassone, è nato in Italia il primo progetto di coltivazione di orti a distanza, rivolto a famiglie e persone attente alla qualità e alla genuinità dei prodotti della terra. Frutta e verdura, ma non solo, uova, latte o addirittura lana propria. Anche questo è possibile attraverso l'adozione a distanza di animali da fattorie. Un fenomeno che ha contagiato oltre 10.000 italiani, che se da un lato contribuiscono a sovvenzionare le cure di questi animali, dall'altro sono certi della genuinità dei prodotti sulla propria tavola e della loro provenienza. E come sono andati tutti questi progetti, che in realtà sono ormai delle iniziative concrete ben consolidate, ce lo faremo raccontare direttamente dai protagonisti. Allora saluto Giovanni Ferraris, Le verdure del mio orto. Ferraris, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno, grazie. Allora, la coltivazione dell'orto a distanza. Come vi è venuta in mente questa idea, da quanto siete partiti, come è andata, in quanti hanno aderito, ma soprattutto dove è possibile trovarvi? Cominciamo subito con le informazioni di servizio perché gli ascoltatori sono molto interessati. Allora, noi siamo a Santhià, quindi Piemonte, quindi vicino a Vercelli, la terra del riso. La nostra infatti è un'azienda che a me piace di più chiamare Cascina, che si è sempre dedicata appunto alla coltivazione del riso. Noi siamo in tre, io sono il più grande, poi c'è mia sorella Francesca e mio fratello Paolo. Abbiamo fatto i lavori più diversi e 5 anni fa ci siamo ritrovati con l'azienda ereditata da nostro papà. Abbiamo deciso di far ritorno in Cascina, di continuare con la coltivazione del riso e di apportare delle novità, qualcosa di diverso. Ma che tipo di, come dire, esigenza avevate intercettato dal mercato? Per quale motivo vi è venuto in mente addirittura di coltivare voi degli appezzamenti di terreno, dandoli poi proprio in adozione, perché questo è lo spirito della vostra iniziativa? Esatto. Ma noi siamo partiti, diciamo, con le verdure perché ci sembrava la coltivazione a noi più familiare, più facile da fare oltre al riso, proprio perché noi abbiamo comunque sempre fatto il nostro orto. E andando un pochino a sondare il terreno, c'era e c'è questa voglia di prodotti genuini, di andare a riscoprire soprattutto quelli che sono, dico sempre, i sapori di una volta. E quindi abbiamo pensato all'orto quello che facevano i nostri nonni, quindi l'orto con le verdure, l'orto con le fragole, l'orto con i fiori. E da qui nel giro di, direi, di qualche anno, perché ci abbiamo comunque studiato un pochino. Infatti, perché immagino che mettere in piedi un'iniziativa di questo tipo, tra l'altro siete gli unici a farla in Italia oppure ci sono anche altri colleghi che hanno messo in piedi qualcosa del genere? Ma in questo modo, nel dare l'orto in adozione e quindi nel decidere assieme la dimensione dell'orto in base alle esigenze di ognuno, decidere assieme quali verdure andare a seminare nell'orto e qui e poi fare la consegna delle verdure a domicilio, siamo in questa formula gli unici. Esistono altre realtà che coltivano verdure e consegnano a domicilio, diciamo, con una formula diversa. Insomma, è sicuramente molto interessante, poi ci deve dire naturalmente anche a chi volesse aderire, le farò fare magari un preventivo per me, che sto poco a casa, però consumo molta frutta e verdure, ma sono da sola, quindi capire anche quanto mi potrebbe costare un appezzamento adottato presso di voi. Chissà quanto mi potrebbe costare invece l'adozione di una pecora a distanza, che sembra così una cosa anche che fa un po' sorridere, invece è un'impresa estremamente seria, quella idea da Nunzio Marcelli, fondatore del bioagriturismo La Porta dei Parchi, che è enorme, perché anche qua insomma ci si può andare sicuramente anche per una bella vacanza a diretto contatto con l'ambiente. Marcelli, buongiorno. Buongiorno a tutti i consumatori. Esatto, soprattutto. Quante pecore avete? Noi abbiamo in azienda 1300 pecore, però è esteso ad un consorzio di allevatori biologici dell'Appennino centrale, circa 8.000 capi. 8.000 capi dati in adozione a distanza in quanti? Sì, non sono tutti in adozione perché ce ne sono ancora disponibili, oltre che perché è la riproposizione di un allevamento di tipo tradizionale che, oltre alla produzione del cibo, vuole anche cercare di garantire la continuità del controllo del territorio. Il nostro è un progetto che adotta una pecora e difendi la natura. Si è, da più parti è stato anche scientificamente provato, anche se noi, i nostri antenati sapevano che l'ambiente si difende in questo modo perché hanno svolto per migliaia di anni questo tipo di attività. e vogliamo a tutti i costi mantenerlo, anche se i parametri di tipo economico non certo sono a noi favorevoli, per tutta una serie di alti costi e soprattutto per la pirateria di tipo alimentare, perché infatti molti dei nostri prodotti vengono spacciati per tali, e quando invece c'è una ricca produzione di commerciale che si appropria del nostro nome e in questo modo ci danneggia due volte, perché da una parte sottrae a noi la possibilità di raggiungere il mercato e dall'altra non certo fa onore alle nostre produzioni, perché non sempre si tratta di prodotto di quantomeno di provenienza garantita, perché certo, il nostro impegno no, è quello di mantenere un discorso biologico. Esattamente, no, tra l'altro le ho fatto spiegare proprio tutto questo, proprio perché dietro ad un'iniziativa che può apparire anche estremamente, come dire, folcloristica, l'adozione della pecora a distanza, c'è tutto uno spirito e tutta una filosofia dietro che appunto vuole particolarmente salvaguardare anche le produzioni locali. È un discorso che è molto caro anche al ministro Zaia, lui ne parla spesso, ne ha fatto anche un suo grande cavallo di battaglia di questo suo governo, per cui c'è poi anche chi concretamente opera sul territorio e fa il suo per la protezione del proprio territorio e delle proprie produzioni locali. Fra un minuto e mezzo devo andare alla prima pausa, però non posso non sentire anche Angela Berlingo di Slow Food Educazione, perché è la responsabile del progetto Orto in Condotta, quindi portare anche l'educazione nelle scuole alla coltivazione, al rispetto appunto per la terra. E però le devo far anche raccontare come si celebra oggi Berlingo il Terra Madre Day, il ventennale di Slow Food. Quest'anno appunto la vostra associazione compie i suoi primi 20 anni. Come si concretizzerà questa giornata per quello che vi riguarda, soprattutto in Italia, anche perché so che è un'iniziativa comunque internazionale in qualche maniera per tutte le iniziative che avete messo in campo? Allora, buongiorno prima di tutto e buon Terra Madre Day a tutti. Oggi Slow Food festeggia i suoi primi 20 anni, infatti nel 1989 a Parigi 20 delegati di diverse nazioni hanno firmato il manifesto di Slow Food, ed oggi a 20 anni di distanza ci ritroviamo a festeggiare questo giorno molto importante con diverse iniziative che vanno ad esprimere in qualche modo le peculiarità di ogni territorio che oggi si sta esprimendo in diversa maniera. Alcuni esempi, ad esempio in India ci sarà una giornata di informazione sulla qualità alimentare dedicata a educatori, produttori e studenti. In Canada verranno organizzate delle cene dove ogni partecipante avrà degli ospiti e utilizzerà per le proprie pietanze soltanto prodotti locali. In Sicilia, ad esempio, verranno inaugurati due nuovi orti in condotta per ricollegarci al nostro progetto educativo nelle zone alluvionate di Messina. Avrà questa mattina le scuole parteciperanno ad esempio a una caccia al tesoro con dei laboratori, proiezioni di filmati, per cui diversi modi e diverse attività per festeggiare questa giornata importante. E insomma, poi tra l'altro avete avuto anche, come dire, adesso non la voglio chiamare fortuna, ma la circostanza fortuita di celebrare questa giornata proprio anche, come dire, nella settimana in cui tutto il mondo guarda Copenaghen, per cui sicuramente ci sarà anche un po' più di facilità di avere l'attenzione nei vostri confronti. Allora, noi questa mattina abbiamo messo in campo tante cose di cui parlare, per i quali naturalmente chiedo la vostra collaborazione. 800 24 00 24, avete anche voi riscoperto il campo da qualche tempo a questa parte? Per che cosa? Per ricercare le produzioni di qualità, quelle di casa nostra, per tentare anche di risparmiare, perché c'è sempre la grossa polemica, no, del trasporto dei prodotti dell'agricoltura dalla terra ai banchi del supermercato, quando finiscono là costano tanto perché fanno un grande percorso. Stamattina apprendiamo dai giornali che c'è una proposta di legge anche per tornare a valorizzare, ad incentivare i prodotti locali. Discuteremo anche di questo. Raccontateci come la pensate. Avete fatto anche l'orto a casa vostra? Vi siete anche attrezzati per questo in questi ultimi periodi? E allora eccoci ritrovati a Salvadanaio, ma anche tra di voi c'è qualcuno che, come dire, anche a causa o grazie alla crisi ha riscoperto, è stato ricondotto sulla strada della terra, della valorizzazione dei prodotti della nostra terra. Lo sapete che se anche non avete un orto è possibile adottare un orto a distanza o comunque un animale della fattoria a distanza. Abbiamo scoperto tante iniziative originali di questo tipo e peraltro oggi ovviamente abbiamo colto l'occasione anche per dare spazio a Slow Food, che celebra il suo ventennale con il Terra Madre Day, tutto nell'ottica naturalmente dell'educazione alimentare e del rispetto dell'ambiente. 800 24 00 24, il numero verde per parlare con noi stamattina, ma soprattutto con i nostri ospiti: Giovanni Ferraris delle Verdure del Mio Orto, Nunzio Marcelli della Porta dei Parchi e Angela Berlingo di Slow Food. Sentirei Mauro da Siena e poi per continuare appunto la nostra chiacchierata. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Ci dica tutto. Innanzitutto è un piacere ascoltare una trasmissione con questo argomento. Che per una volta tanto non si occupa di tasse, mutui, rate e quant'altro, giusto Mauro? Sì, no, io lo ascolto volentieri sempre perché sono un contadino biologico appassionato di finanza e quindi per me adesso oggi vado proprio, sto potando le mie viti in una bella giornata di sole, per cui è una soddisfazione immensa. Volevo semplicemente dire, anch'io sono da sempre, insomma, servo le famiglie, i gruppi di acquisto con i miei prodotti e vorrei incoraggiare, e quindi questa è una cosa che sta avvenendo con una discreta frequenza e accelerazione negli ultimi tempi, e questo è sicuramente apprezzabile e importante. Ha notato qualche cambiamento, qualche attenzione in più con la crisi, Mauro? Perché anche questo potrebbe essere stato forse uno sviluppo originale determinato dal momento di difficoltà delle famiglie. Sì, ho notato questo e ho notato che comunque per fortuna dopo i primi anni in cui i prezzi di prodotti biologici o biodinamici costavano molto di più dei prodotti diciamo consueti, questo adesso si sta un po' riequilibrando, perché per mia esperienza è che comunque i miei prezzi sono gli stessi di quelli che sono sul mercato, perché non ho costi maggiori per produrre i miei prodotti biologicamente, quindi non c'è motivo di farli pagare di più. A volte anche in questo mondo si assiste a delle sorti di speculazioni. La ringrazio per la sua onestà intellettuale, Mauro, perché sa com'è, magari a causa del petrolio lei poteva anche dire, come hanno fatto in molti, ho dovuto aumentare i costi anche di produzione eccetera, invece insomma molto onestamente ha ammesso: a me i costi non sono aumentati, quindi non vedo perché anche quello che produco devo aumentare il costo verso i consumatori. La ringrazio per la sua esperienza. Vorrei tornare un attimo a Giovanni Ferraris delle Verdure del Mio Orto, perché in qualche ascoltatore ci sta scrivendo, appunto ci sta chiedendo le modalità operative con cui è possibile attraverso di voi adottare, so che non è il termine giusto, poi magari mi dica lei qual è quello giusto, un appezzamento di terreno, scegliere la coltivazione, ma credo che comunque andiate con la stagione, non è che io in questo momento possa scegliere di piantare delle fragole da voi, no? Sì, allora gli orti sono appunto come viene fatto un orto familiare, assolutamente di stagione, e quindi è tutto all'aperto e non ci sono serre. Quindi io quello che dico sempre, prima di tutto andiamo a rispettare quelle che sono le esigenze delle stagioni, quindi delle singole verdure, insomma, sono loro quelle che devono crescere, anche perché se noi le rispettiamo nelle loro esigenze, nella loro crescita, saranno sicuramente delle verdure più buone e più sane soprattutto. Allora, cosa dobbiamo fare, per esempio? Quanto c'è un limite minimo di metri quadri che posso, come dire, prenotare da voi per la coltivazione? Sì, allora noi abbiamo identificato l'orto piccolo, che è un orto da 30 metri quadri, che è un orto che è indicato per le 1-2 persone, quindi o la persona che è da sola e che mangia comunque una buona quantità di verdura, oppure quando si è in due e si mangia insomma verdura in quantità medie. L'orto da 30 metri quadri appunto è un orto che dà all'incirca, in base appunto alla stagione, in base alle settimane, in base a quella che è la disponibilità dell'orto, un 3-4 kg di verdura alla settimana. E la consegnate voi direttamente? Noi la consegniamo direttamente, facciamo le consegne una volta alla settimana. Abbiamo un furgone a metano, quindi andiamo risparmiate anche su quello, auto ecologica. Esatto, cerchiamo insomma di rispettare in tutto e per tutto quello che è l'ambiente. E quanto mi costa un appezzamento da 30 metri quadri di terreno? Allora, all'incirca tutto compreso, quindi compreso tutto il lavoro dell'orto, comprese le consegne, compreso assolutamente tutto, siamo sui 700-750 euro all'anno. All'anno. Allora, c'è una domanda invece per Nunzio Marcelli, per la Porta dei Parchi, da parte... ci è scomparso l'ascoltatore, come si chiama? C'è un ascoltatore che voleva chiederci qualcosa a proposito della... lo sentiamo dopo, per Egidio da Roma credo che fosse, Egidio lo abbiamo perso, adesso lo recuperiamo, andiamo allora da Elio dalla provincia di Salerno invece, che voleva, come dire, fare, e questo mi permette tra l'altro la sua considerazione, di andare al progetto Orto in Condotta con Slow Food. Elio, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, abbiamo fatto un po' di confusione, perdonare. Ci siamo andati in confusione da linee telefoniche stamattina, buongiorno. Non vorrei smontare tutto. Non ci smonti tutto, per carità. No, nel senso che dico, sono contentissimo di questo di cui state parlando, anzi vorrei che fosse veramente fatto per bene, nel senso che vorrei vedere lo spot per televisione 10 volte al giorno su un prodotto che i nostri figli possono mangiare, non lo spot delle merendine. Questo è il vero, mi dovete perdonare, io mi occupo di agricoltura biologica, però mi occupo anche di comunicazione. I miei figli comunque mangiano anche le merendine, perché gliele propinano i mass media, che i miei figli non possono sentirsi. E quindi lei dice, insomma, per quanto possa fare io con la mia educazione, poi alla fine perdo qualche volta, è dura. Siamo contro i mostri, cioè, ecco, Davide e Golia. Cioè, le ripeto, l'ideale sarebbe che il governo centrale imponesse su 10 spot, 5 devono essere della mela, non della merendina, 5 della merendina e 5 della mela. Io vedo i nostri figli mangiano delle schifezze allucinanti. Lo so, è la potenza delle multinazionali anche del settore. Sono cose terribili. Ma come fa? Cioè io sinceramente non ammetto, non ci riesco. 10 volte, purtroppo 5 volte non ci riesco, perché poi li senti che dice, vabbè, ma perché non mi dai questa cosa? Lo mangiano tutti, certo. I bimbi, è un po' come quando portano il cellulare a scuola, nel momento in cui ce l'hanno tutti, e si può fare ben poco ad educarli, se poi la problematica è questa. Elio, allora io le faccio sentire quello che stanno facendo gli amici di Slow Food con l'orto in condotta, perché chiaramente se si parte dalla scuola sicuramente gran parte del lavoro potrebbe essere già fatto. Allora Berlingo, ci dica un po' questo progetto di avvicinamento dei bambini all'agricoltura, nello spirito in cui chiede anche questo genitore un po' preoccupato per la sopraffazione delle merendine a danno dei suoi figli. Credo che lo spirito sia anche proprio quello della direzione chiesta dal nostro ascoltatore, giusto? Sì, direi che lo sforzo deve essere sicuramente congiunto. Le famiglie fanno sicuramente la loro parte, è molto importante, le scuole ci provano e noi nel nostro piccolo, col nostro progetto, proviamo a dare uno stimolo in più in questa direzione. Il progetto Orto in Condotta è ormai attivo da circa 4 anni in Italia, ad oggi siamo a 241 orti su tutto il territorio italiano, più un altro centinaio per il resto del mondo. È un progetto che va ad utilizzare l'orto fisicamente come strumento didattico per avvicinare i bambini all'educazione ambientale, sicuramente al consumo consapevole anche, e all'educazione alimentare, partendo da degli assunti molto semplici, quali possono essere quelli della stagionalità di cui parlava anche prima Giovanni. Pare semplice, pare scontato, ma non tutti sanno che le fragole non si trovano nell'orto a dicembre, perché siamo abituati, anche per le nostre abitudini di acquisto nelle grosse catene alimentari di distribuzione, siamo abituati appunto a trovare qualsiasi prodotto dell'agricoltura in qualsiasi stagione, e noi con questo progetto invece vogliamo riaffermare l'importanza appunto di questi principi semplici attraverso il contatto diretto dei bambini con la terra. Che poi tra l'altro bambini che sono estremamente, da quello che ho capito anche documentandomi un po' sulla vostra iniziativa, l'ha riportata molto bene La Stampa nei giorni scorsi, La Stampa, proprio il giornale di Torino, i bambini sono estremamente recettivi su questo, addirittura arrivano al punto che a settembre non sanno niente di tutte le coltivazioni di cui si può parlare loro, a giugno arrivano anche a consigliare alla mamma come fare la spesa e come orientarsi fra i banchi della frutta e della verdura del supermercato, giusto Berlingo? Abbiamo dei riscontri molto, molto positivi da questo punto di vista, per cui noi continuiamo. Ovviamente la strada non è semplice, abbiamo da combattere o comunque da, da rispondere a delle sollecitazioni che sono di carattere diverso e contrario al nostro, però appunto noi ce la mettiamo tutta, e in più puntiamo anche sull'importanza delle figure che ruotano attorno a questo progetto che noi chiamiamo la comunità dell'apprendimento, che è fatta degli insegnanti, ovviamente dei genitori e anche della figura del nonno ortolano, che infatti è colui che passa in qualche modo la sapienza del lavoro nell'orto. È uno spirito molto molto interessante. Allora, intanto sono state coinvolte 224 scuole in 19 regioni, 16.800 bambini. Ci dobbiamo fermare, suggerimenti per chi è in viaggio, poi è pronta la domanda di Egidio che prima c'era scappato sull'adozione delle pecore a distanza, anche Pietro dalla provincia di Milano e altri ascoltatori che ci vorrebbero raccontare che si stanno divertendo molto facendo l'orto in casa propria. 800 24 00 24, il numero verde ancora per apportarci le vostre testimonianze sul vostro rapporto con la terra, ma intesa proprio quella da, da coltivare. Vi siete attrezzati con l'orto di casa vostra in questo periodo, visto che ne abbiamo sentito un po' di più parlare anche a causa della crisi, oppure è un tema che non vi interessa? Insomma, state anche un po' a tenere sotto controllo tutte quelle iniziative che proliferano intorno a noi e che adesso sembrano riscoprire una inattesa, inaspettata valorizzazione. Vi ho ricordato il numero verde, adesso sentiamo Egidio dalla provincia di Roma. Egidio. Buongiorno signora. Buongiorno a lei. Senta signora, volevo, sono rimasto veramente meravigliato della capacità dei nostri imprenditori di raggiungere nicchie di mercato, come per esempio l'allevatore di pecore che propone l'adozione a distanza di una pecora. Quello che meravigliato, ecco, in senso positivo o negativo? No, in senso positivo. Sì. E quello che mi lascia perplesso, siccome la parola adozione normalmente viene riferita all'adozione dei bambini, e in questo caso ci fa un po' rabbrividire, perché questi adottano una pecora e come dicono a Roma, Gidio, no. Tra l'altro, guardi, sì, sicuramente questa sua considerazione è frutto di una certa sensibilità. Devo dire che stamattina, anche parlandone con un'altra persona, ho avuto la medesima reazione. Questa persona mi ha detto: io adotto bambini, non pecore. Sì, chiamiamola come vogliamo, questa operazione Nunzio Marcelli è un sostegno a distanza, lo possiamo definire così, un sostegno al territorio a distanza, perché lo spirito, l'abbiamo spiegato molto bene all'inizio, è diverso. Detto questo, peraltro, per gli accaniti e gli sosteniforti, sostenitori animalisti, sicuramente non è detto che si possa poi, come dire, anche ricevere la carne, perché alla fine si può ottenere anche quello, ma si possono convertire anche, si può convertire anche la carne della pecora con altri prodotti. Sì, ci sono mieli, marmellate, formaggio, anche lana, capi diversi. Però volevo rispondere al radioascoltatore Egidio. Noi non facciamo l'agricoltura di Heidi. Questo è un concetto che va distinto. Se uno vuole che la specie domestica venga perpetrata, così come succede da millenni, purtroppo è gioco forza, ma deve per forza compiere questo ciclo, che è legato anche al consumo della carne. Ora, il fatto di dire si adotta, bene, siamo nel mondo del linguaggio, nel mondo dei media, per cui per rendere un concetto più diretto noi dobbiamo ovviamente usare determinati linguaggi. Cioè, Egidio suggeriva la parola affido, ma non è una questione di termini, è una questione di concetto, di spirito della vostra attività. Io lo chiamo sostegno al territorio, può andare bene lo stesso, Nunzio? Questo è una riscoperta, cioè quantomeno viene fatta giustizia rispetto ad una considerazione del mondo agricolo e del mondo dell'allevamento che fino a qualche anno fa, ancora alberga in molti questo sentimento, considerare la terra come un qualcosa di degradante. Finalmente l'orto arriva a scuola, sì. Così finirà la frase storica che diceva: studi altrimenti andrai a zappare la terra oppure andrai a pascolare le pecore. Questo concetto adesso, cioè tutto oggi così come si sono succedute tutti i vari fatti, dimostrano che recuperare un'attività antica è un sintomo di modernità, soprattutto di comprendere come il territorio che ci è stato così lasciato dai nostri antenati possiamo trasmetterlo anche a chi verrà dopo di noi. Per cui credo che al di là di un'attività economica stiamo facendo un'attività altamente etica. No, tra l'altro non ci dimentichiamo, io lo leggo da questo articolo di Repubblica della collega Vera Schiavazzi, che aveva parlato, proprio aveva ben descritto come funziona il meccanismo delle fattorie a distanza. Ci sono più di 10.000 italiani che posseggono una mucca, una capra, un asino, un maiale, perfino una più galline, senza avere neppure un metro di terreno, né un pollaio o una stalla nel cortile, affidando a me, Debora, Nunzio, una vostra pecora. Quanto mi costa? Come vi posso sostenere? Tanto per chiarire anche il meccanismo di funzionamento del vostro... Il meccanismo, il corrispettivo può essere da 100 euro fino a 190 euro. Ovviamente comprendono all'interno di questo pacchetto, ci sono tutta una serie di prodotti che vanno dal formaggio, alla lana, alla carne e anche al concime. Concime biologico perché... come dicevo, la nostra è una conduzione biologica. E infatti, ultima cosa, Nunzio, esattamente, peraltro noi facciamo altro che parlare dell'affido della pecora e del bioagriturismo alla Porta dei Parchi, non abbiamo detto dove siete, in Abruzzo, quindi terra bellissima, con grosse difficoltà. Nel Golo del Sagittario, all'uscita del casello di Cocullo, all'Ambessa degli Abruzzi. Benissimo. Noi siamo anche facilmente raggiungibili sull'autostrada A25, e dove è possibile, si chiama la Porta dei Parchi proprio perché... il territorio è collocato in un sistema parchi Abruzzo, dal Parco Nazionale Abruzzo e Molise al Parco della Maiella, Parco Sirente e Parco del Gran Sasso, per cui sono parchi che poi diciamo sono stati modellati anche da questa nostra, questo settore che è quello dell'allevamento ovino, che ha rappresentato per la nostra regione una ricchezza che forse oggi enorme. Non riusciamo più a raggiungere. Allora, io chiuderei la trasmissione, ancora un paio di minuti di tempo, con un paio di testimonianze di un paio di ascoltatori per capire se... perfetto, Davide Paolini, il nostro gastronauta, ci ha raggiunto al telefono. Davide, che piacere, allora devo lasciar concludere te, devo lasciar da parte gli ascoltatori, ma lo faccio molto volentieri. Ti sei appassionato alla nostra trasmissione stamattina, ti abbiamo rubato anche qualche argomento. Volevo raccontare che io ho un orto sul terrazzo da 7-8 mesi, sto divertendo moltissimo ed è un'esperienza straordinaria perché si impara veramente a conoscere le verdure ad altro, e io che non amavo le verdure... Che tipo di coltivazione ti permette il clima di Milano? Scusami Davide, tanto per capire, che magari mi attrezzo anch'io. Peperoncino, sedano, cavolo, rucola, tutti i tipi di insalata, pomodori, ho avuto un sacco di pomodori. E segnalo ai nostri radioascoltatori che esiste un'associazione www.ortisti.it che dà proprio un aiuto per fare gli orti in terrazzo o gli orti in casa. Davide, sei stato un tesoro a chiamarci, a darci anche il tuo contributo. Io direi di rifare, allora, esattamente un anno fa l'avevamo fatta con alcune pubblicazioni del Sole, una joint venture tra il tuo programma e il mio. Lo rifaremo magari proprio parlando degli orti, dando qualche indicazione pratica agli ascoltatori che si vogliono attrezzare in questo senso sul proprio piccolo balcone di casa, pur non avendo, come me, per niente affatto il pollice verde su niente, lascio morire tutte le piante. Grazie Davide, a presto. Anch'io. Il mio spazio era molto poco e non avevo il pollice verde, lo sono diventato. Bravissimo, ti ringrazio allora anche per la spinta che ci hai dato. Io non riesco a sentire Pietro da Milano e Sergio da Genova, ci sono tanti ascoltatori che si sono un po' così stimolati nell'ultima parte del programma. Allora noi, se questo è un tema che vi è piaciuto, ci ritorneremo senz'altro, magari scadenziandolo un po' se potremo. Io intanto ringrazio Giovanni Ferraris delle Verdure del Mio Orto, Nunzio Marcelli della Porta dei Parchi, Angela Berlingo di Slow Food. Speriamo di avervi divertito questa mattina. Salvadanaio ha esplorato un mondo che non gli è esattamente proprio, parliamo sempre del denaro. Oggi abbiamo parlato anche della nostra terra, anche questo è denaro naturalmente, ma soprattutto è un denaro che ci fa stare bene se ben speso. Grazie a tutti, Salvadanaio torna domani, buona giornata.